Grazie, grazie a Pino della sua testimonianza, grazie molto. La terra piemontese è sempre stata, come dire, una terra di elezione per lui, perché era anche quella più vicina, quella che frequentava più frequentemente. Tra le grandi creature del Piemonte c'è la Barbera. La Barbera è un'uva straordinaria, un'uva territorio, un'uva che in qualche modo descrive tutto il carattere, tutta la personalità di questa regione, così ricca, così complessa come è ricca e complessa la Barbera. Con la Barbera si è subito instaurato uno strettissimo rapporto tra Veronelli e quest'uva e questo vino, perché sentiva che era un vino che aveva questo carattere un po' selvaggio, un po' particolare, tanto che aveva coniato una parola apposita per descrivere quella che lui chiamava l'eleganza rustica. Sembra un ossimoro, cioè sembrano due cose che non possono andare d'accordo, ma secondo lui potevano andare d'accordo. Aveva inventato appunto il termine zergo. Un vino zergo era quindi un vino che aveva questo carattere un pochettino selvatico, ma che aveva anche questa sua eleganza, questo suo modo di dare questa sensazione con signorilità, con estrema franchezza. Ecco, la Barbera spesse volte ha questi caratteri appunto un po' zerghi, perché ha questa sua grande esuberanza, questa sua grande ricchezza e qualche volta qualche lieve spigolosità. Un grande interprete della Barbera naturalmente è stato Giacomo Bologna, un amico con il quale ha diviso certamente i momenti più belli della sua vita. Giacomo Bologna è stato il vero cantore della Barbera, è riuscito in qualche modo a sdoganarla dalle osterie, praticamente facendola diventare un vino importante, un vino che tutto il mondo avrebbe guardato con reverenza, con di fronte a una grande bottiglia di Barbera ci si alzava il cappello, perché appunto si capiva che da questo semplice vino poteva nascere invece uno stile, un modo di essere interpretato, capito, che poteva diventare davvero grande. Quindi, come dire, Giacomo Bologna è stato davvero il Caronte che ha trasportato verso di noi la moderna Barbera. Dopo di lui naturalmente tutti hanno capito qual era il carattere di quest'uva e hanno quindi cominciato a vinificarla a suo modo, imitando proprio quello che lui aveva fatto e aveva così sperimentato nella sua cantina. Ormai di Barbera, di grandi Barbera d'Aste ce ne sono tantissime. Noi abbiamo con noi una Barbera di un amico, dei fratelli Santo Pietro, fratelli che si sono divisi tra la vigna e i prodotti artigianali, tra il vino e i prodotti della terra. Hanno iniziato con il peperoncino, piccante, che allora nessuno conosceva. Era vera una tradizione piemontese, ma che era molto finita un po' in soffitto, finita un po' nel dimenticatoio. Lui ha ripreso, questi due fratelli hanno ripreso questa tradizione e l'hanno fatto diventare anche quello un elemento importantissimo, un elemento di alta gastronomia, presente in tutte le gastronomie italiane, dalle più ricercate, e poi è cominciato tra l'altro a viaggiare anche per il mondo. Adesso ci sono peperoncini farciti dappertutto, ce n'è in ogni salsa, in ogni luogo, ma tutto nasce praticamente da questa amicizia praticamente tra Veronelli, Giacomo Bologna e i fratelli Santo Pietro. Assaggeremo quindi un loro vino, un loro Barbera, proprio che riprende proprio quel carattere che Giacomo Bologna ha insegnato. Come terzo vino avremo un vino dell'Oltre Po Pavese, un vino dell'Oltre Po Pavese fatto sostanzialmente con Barbera e Croatina. Anche qui, anche per questa terra, anche per questi vini, lui ha spesso usato il termine zergo, perché proprio da queste terre nascono vini estremamente generosi, estremamente ricchi, esuberanti, qualche volta con qualche coda un pochettino selvatica, un pochettino rustica, ma sempre molto generosi. Questa generosità lui la premiava, perché sentiva in qualche modo proprio la forza che usciva dalla terra e che si tramutava poi in energia in un bicchiere. Non è mai stato il degustatore così che storceva il naso di fronte a un profumo appena appena rustico, anzi si faceva coinvolgere, gli piaceva, sentiva questo componente della terra che secondo lui dava anima, corpo e vita ad un vino, quindi lo riteneva in qualche modo proprio un pregio, un elemento importante in un vino. E con noi c'è Annibale Alziati, che è il produttore di questo Oltre Po' Pavese, molto molto molto ricco, molto generoso, appunto lo sentiremo poi quando lo avremo nel bicchiere. Come ultimo vino siamo andati in centro Italia, siamo andati a trovare un'azienda anch'essa molto molto molto particolare. Sono cinque ragazzi che si sono messi assieme, tutti appassionati di vino, appassionati della terra, e tutti assieme si sono messi a fare un'azienda agricola, ma non un'azienda agricola normale come già tante se ne fanno in giro per il mondo. Si sono messi assieme cercando in qualche modo di fare una piccola comune, di trovare un elemento che potesse accomunare le loro esperienze pariteticamente in un'impresa agricola, nel modo quindi di concepire il legame con la vigna e il legame tra loro stessi e i rapporti con il mondo. Già questo elemento a Veronelli, anarchico da sempre, è chiaro che costituiva un elemento estremamente interessante. Cinque giovani che si univano in nome in qualche modo di un ideale comunardo, di carattere anche quindi molto molto vicino al suo modo di intendere la politica, e quindi estremamente interessante e curioso per questo fatto. Questo vino fatto appunto con l'uva Montepulciano, che è l'uva di quella zona, che è l'uva di quella terra, e che hanno chiamato Barricadiero, e figuriamoci, era un invito a nozze per Veronelle naturalmente. Quindi ecco che nasce questo rapporto immediato con questi cinque ragazzi, li chiama, li vuole conoscere, vuole sentire il loro vino eccetera eccetera, e nasce quindi questo rapporto molto molto affettuoso tra di loro. Non si perderanno più di vista, perché lui tutti gli anni vorrà avere sul suo tavolo la bottiglia di Barricadiero, vorrà sentire come ogni anno questo vino riuscirà a comunicargli l'umore della terra, l'umore di questi cinque ragazzi. Ecco, andremo a sentire questi quattro vini proprio pensando a come Veronelli stesso li avrebbe assaggiati, di come li avrebbe gustati, di come si sarebbe lasciato affascinare da questi quattro vini, da questi grandi sapori, così ricchi, così generosi e così vivaci. Ecco, possiamo quindi cominciare a versare il primo vino, così cominciamo a partire con un bicchiere in mano e vedrete che cominceremo a sentire qualche cosa in comune. Era un pezzettino di questo. Lo aggiungo o lo so? Un pezzettino. Sì. Farfallina sono proprio ideale.